Frugati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Vi do subito i contatti: 800 24 00 24. Chiamate, prenotatevi per intervenire fino alle 15.30 oppure aspetto i vostri sms e i vostri whatsapp. 349 238 6666. C'è qui con me Fabio Parisi, agente intermediario, profondo conoscitore del calciomercato e non solo, di tante storie nel mondo del calcio. Oggi non ci sono grandissime notizie, ma qualcuna ve la diamo, Fabio. Beh, intanto ne diamo una per i tifosi del Napoli, che è bella. Cioè, Milik ha ottenuto l'idoneità sportiva. Questa mattina ha superato l'ultima visita medica a Roma con il professor Mariani, torna ad allenarsi col gruppo. E lo rivediamo quando, da conoscitore del mondo del calcio? Quando lo rivediamo, beh, innanzitutto buongiorno a tutti, Canciogio. E beh, certo, una buona notizia, perché uno è un giocatore che si avvia sulla via del recupero. Due, serve al Napoli come giocatore, serve probabilmente all'allenatore come alternativa, come stimolo di quelli adesso che ci sono, troppi, quelli che sono arrivati, c'è, e quelli c'è che sono arrivati. C'è, esattamente. C'è esattamente. Quelli che sono arrivati. Adesso sappiamo benissimo che dopo certi tipi di interventi avere l'idoneità vuol dire ricominciare a giocare, ad allenarsi, e prima di trovare una forma partita ci vorrà del tempo. Però è chiaro che è un'alternativa importante per il Napoli, anche in vista della partita di Champions League. Quindi diciamo un mesetto, dai. Sì, un mesetto per essere in condizione per la partita del Real. Io credo che possa essere disponibile. Poi da prendersi sulle spalle l'attacco del Napoli non lo so ancora. Però va bene. È una bella iniezione di fiducia. Certo, intanto ieri sera abbiamo visto la Juventus in Coppa Italia contro l'Atalanta. Ha vinto bene, il primo tempo è stato un ottimo primo tempo da parte della Juventus, però qualche riflessione sui blackout che cominciano a essere ricorrenti va fatta, e ieri sera a caldo l'hanno fatta anche Barzagli e soprattutto Allegri. La Juventus ha giocato secondo me molto bene fino a che non abbiamo smesso di giocare, già prima del 2-0, poi dopo il 2-1 abbiamo fatto il 3-1 e lì proprio abbiamo combinato grosse, perché abbiamo rischiato di alla fine di prendere il terzo gol, e quel momento lì sarebbe stato tutto più complicato passare il turno, perché in quel momento l'Atalanta stava andando in accelerazione, aveva trovato entusiasmo e noi avevamo perso certezze, quindi c'è stata un po' di sofferenza, ma ci fa bene per le partite che verranno e che dobbiamo giocare, perché dobbiamo capire che quando le partite stanno 2-0 e c'è da fare la difesa si difende in modo diverso da quello che abbiamo fatto negli ultimi minuti, nell'ultimo quarto d'ora, perché poi un episodio ti può riaprire la partita. Sta diventando un po' una costante, la Juve che non riesce a stare 90 minuti con la stessa tensione nella partita. E questo è un segnale preoccupante, perché conoscendo Max è proprio una cosa che gli fa girare le scatole. Tu puoi perdere una partita, se la perdi tra virgolette nel modo giusto è contento, e puoi vincere una partita e la vinci nel modo sbagliato e lui va fuori di testa. È chiaro che poi se queste cali di concentrazione li hai, senza nulla togliere all'Atalanta, ma in una partita di Coppa Italia, se la Juventus la in casa, la porti a casa. Se cominci a averli in una finale come a Doha, magari anche contro un Milan irresistibile, probabilmente la partita la perdi. È chiaro che se ti presenti in Europa a giocare la Champions League e non giochi i 180 minuti al 110% anche delle tue possibilità, Porto, anche tutti Porto. Abbiamo festeggiato il sorteggio del Porto con la Juventus. Sai, però attenzione, io dicono che la Champions League è una, tra virgolette, una brutta bestia, ce l'hai nel DNA, ci sono squadre che stravincono e non hanno la DNA, il Champions nel DNA, e ce ne sono altre che non vincono sempre ma ce l'hanno nel DNA. Io credo un esempio lampante è il Liverpool, un altro esempio lampante credo sia il Porto, perché il Porto è una squadra che ha la Champions League nel DNA, è una squadra che va presa con le pinze. Io credo che la Juve avrà sicuramente la capacità, la possibilità di gestire questa situazione, però è una squadra che va affrontata come se tu affrontassi veramente il Real Madrid o il Barcellona. Intanto l'ottimo Giorgio De Luca mi segnala che De Nicola, medico sociale del Napoli, ha detto che Milik potrà essere in campo in 15 giorni, quindi addirittura a fine gennaio. C'è la webcam? No. Va bene, invece vi faccio sentire. Andiamo avanti, andiamo con i piedi. Facciamo un mese, dai, facciamo un mese. Vi posso farvi sentire invece Montella questa sera, ore 21, c'è Milan-Torino, tra l'altro praticamente senza riserve, perché la Coppa Italia, per carità, non piacerà a nessuno, però in un campionato dominato dalla Juve interessa agli altri. Interessa provare interessa ad perché in fondo. Dà anche uno spot in Europa, che certo, non è una cosa assolutamente da sottovalutare. Montella, però, che parla dei giovani italiani e anche del mercato. Ci sono tanti giovani che stanno, alcuni si stanno consacrando, come Benedeschi, Berardi, che insomma ce ne sono tanti di giovani interessanti, e giovani, nuovi giovani, diciamo così, che si stanno mettendo in mostra, ce ne sono tanti, sono tante le squadre che le stanno mettendo in mostra, quindi probabilmente c'è un lavoro alle spalle che parte da qualche anno rispetto al passato, e quindi si stanno iniziando a raccogliere i primi frutti. Dimmi una cosa veloce prima del traffico. Sta diventando una moda questa di investire un sacco di soldi sui giovani italiani? Poi parliamo di Gagliardini, che in questi minuti viene presentato dall'Inter. Beh, è una moda, è una necessità, perché si comincia innanzitutto a tenere i soldi nel sistema calcio italiano. Facciamoli arrivare dall'estero, ma teniamoli qua poi. Ed è una cosa importante. Investire sui giovani, non dimentichiamoci che le grandi dinastie del calcio degli ultimi tempi, penso al Milan o al Manchester United di tempi fa, avevano uno zoccolo duro di giocatori, come dire, domestici, e che venivano anche magari dal settore giovanile, su cui venivano innestati dei fuoriclasse, e i risultati si sono visti. Quindi io credo che uno zoccolo di giocatori italiani bravi, giovani, possa contribuire a creare una dinastia, un programma futuro. Sì, più di mille. No, volevo mille sottolineare una cosa, che è una situazione strana. La partita di Coppa Italia stasera del Milan è importante, perché al di là che la Coppa Italia dà lo spot per l'Europa, ma chi vince va a giocare con la Juventus, che sia il Toro, che dove c'è il derby, o il Milan, un Milan-Juventus, anche a livello economico e di botteghino ha la sua valenza. Scrive un amico: lei dà il numero per fare i messaggi, ma poi se non legge quelli contro la Juve non vale la pena scrivere. Scrivete quello che volete, insomma, noi cerchiamo di leggere il più possibile. Sarebbe meglio se vi firmaste, eh? Sarebbe bellissimo. 349-238-6666 oppure 800-24-0024. Adesso c'è il traffico, poi arriva un grande ospite per parlare della Juve di ieri sera. Tutti convocati. Convocati. Diciamo che non abbiamo gestito più bene la palla e non stavamo più reattivi sulle gambe, insomma, ogni tanto bisogna fare anche fatica per difendere, e forse abbiamo fatto un po' meno fatica del solito, e poi prendi gol, perché anche se prendi un gol all'incrocio dei pali lo prendi perché hai mollato qualcosa, non viene per caso. Strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! Sì, il mister ha avuto ragione, perché penso che dopo il 2-0 abbiamo concesso troppo. A volte capita questo, penso che sia una cosa di correggere. Il mister sicuramente da domani lo dirà, però dovevamo chiudere la partita prima, no? Non soffrire così fino all'ultimo minuto. I'm afraid of no ghost. Nel riscatto all'avversario lo considera, il problema è che stacchiamo la spina e dopo diventa tutto più difficile. Le partite, fino a che non finiscono, non sono mai chiuse. Noi stasera abbiamo rischiato molto. Ghostbuster, perché c'erano i fantasmi di Doha, ieri si sono materializzati a una mezz'oretta dalla fine a Torino. Allora, io intanto saluto Alberto Zaccheroni, che ieri ha commentato Juventus-Atalanta per la Rai. Mister, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a voi. C'è qui con noi Fabio Parisi. Io voglio dire questo: secondo me sono più le notizie positive per la Juve dopo ieri sera, primo tempo buono, squadra in salute, con la gamba, con la testa giusta, di quelle negative. Però certo che fa notizia, io non so se Alberto Zaccheroni è d'accordo, questo blackout che ormai va ripetendosi. C'era stato a Doha nella finale di Supercoppa, c'era stato nella prima mezz'ora Marassi contro il Genoa, c'era stato, se vogliamo, anche nel secondo tempo a San Siro contro l'Inter, c'è stato ieri sera. Non lo so, da cosa può dipendere, Alberto? Ma io adesso ho presente soprattutto la partita di Doha e quella di ieri sera. Io sul blackout di ieri sera, onestamente, mi viene da andare a cercare più i meriti dell'Atalanta. Cioè? L'Atalanta ha fatto un inizio di ripresa non certamente positivo. I primi, adesso mi ricordo, fino alla traversa minuti, di Rincon, no? Fino a più o meno giocato, al quarto d'ora. Sì, sì. No, aveva Gasperini ha ridisegnato la squadra con quattro difensori e c'era un vuoto, chiamiamolo così, no? Un buco in mezzo, e quindi la Juventus era padrona. E dopodiché l'ha ridisegnata di nuovo, l'ha rimessa come gioca, come l'abbiamo visto in campionato, no? Questa linea 3, questi 4 in mezzo al campo, questi due esterni e questo punto centrale. E lì hanno cominciato ad aggredire, soprattutto quando ha messo Conco in mezzo. L'Atalanta ha cominciato ad andare quasi a uomo, ed era molto aggressiva e molto dinamica in tutte le situazioni. E la Juve secondo me non si aspettava, perché sul 3-1, ecco, quindi l'unico rimprovero forse lo glielo possiamo fare, perché magari non aveva messo il preventivo la partita, sì, che le partite durano 90-95 minuti, la partita stava vincendo 3-1 poi, sì, no, voglio dire. La partita anche se qualche segnale si era già visto prima, chiuso. Sì, no, no, ma infatti ha avuto tre palle grosse, sbaglio, l'Atalanta, per far male la Juve. È che è cresciuta l'Atalanta, e secondo me bisogna, a volte i demeriti di una squadra finiscono dove iniziano i meriti dell'altra squadra. Sì, ma l'Atalanta ieri ha avuto grandissima personalità, però io lo chiedo anche a Fabio Parisi, cioè secondo me resta comunque un fattore su cui riflettere, se poi basta che l'Atalanta sotto di due gol sistemandosi in campo diventi padrona a Torino contro la Juve per mezz'ora e passa. Sì, ne parlavamo prima, non lo so, poi io bisogna anche magari vivere, il mister lo sa benissimo, vivere la quotidianità dello spogliatoio, capire quello che c'è dentro, determinate situazioni che agli osservatori esterni sfuggono perché giustamente restano all'interno del campo d'allenamento e soprattutto dello spogliatoio. Sono segnali che secondo me per un paradosso è bene che ci siano stati, perché probabilmente Allegri adesso correrà dei rimedi, proverà a rimediare qualcosa, troverà delle motivazioni diverse, cambierà qualche uomo, cambierà qualcosa, non lo so, per presentarsi agli appuntamenti importanti della Champions e del finale di campionato. C'è chi sottolinea che un 3-2 in casa col Porto sarebbe grave, per carità, però certamente questo è difficile fare. Soprattutto quando giochi in Champions i gol subiti sono veramente pericolosi, quindi è lì che bisogna stare attenti. Poi Luciano da Fermo dice che la Juve ha giocato in 10 tutta la partita perché c'era Hernanes. Adesso, per carità, Hernanes non sarà il numero uno, però non esageriamo. Ma volevo chiedere invece ad Alberto Zaccheroni oggi che cosa, come la prende secondo te Allegri quando li ritrova Vinovo? No, ma lui probabilmente parlerà in generale, però a me non sembra, ripeto, che tutta la squadra abbia mollato, un po' come a Doha. Sono davanti, ci sono tre uomini che non sono molto, adesso Mandzukic a parte, no? Ieri non c'era Higuain, no? Però Dybala non è uno che lavora molto quando c'è da difendere. Higuain è un altro che non lavora molto, però ripeto, sono due partite diverse. Quella di Doha sembrava, secondo me, non si aspettavano una reazione del gol del Milan una volta andato in vantaggio. Ho avuto la sensazione che la squadra pensava che fosse una partita meno complicata, e nel momento in cui c'era poi da compattarsi per giocare in 11, per ristabilire l'ordine, la qualità, per proporre la qualità migliore della Juve rispetto a quella del Milan, questi giocatori qui probabilmente non erano pronti, non si sono fatti vedere. Ieri sera è un po' stata la stessa cosa, però ieri sera gli allenatori hanno dato un segnale a entrambi, perché ci si aspettava un largo turnover, in realtà sono rimasti fuori Higuain da una parte, sì, se vogliamo, Gomez dall'altra, ecco. E quindi il segnale gli allenatori gliel'hanno mandata, insomma, noi questa Coppa Italia ci teniamo entrambi. E il primo tempo abbiamo visto che era partita forte l'Atalanta, e poi, come ho detto prima, tutti a mezz'ora, la restante mezz'ora è decisamente meglio la Juve. Poi dopo, nel secondo tempo, su 3-1 la squadra ha mollato davanti, perché poi dopo non ha perché l'Atalanta ha cominciato, come ho detto, dopo 10 minuti. Quindi se davanti gli attaccanti non lavorano per la squadra, cioè mi state dicendo che voi trovate impensabile che Allegri possa arrivare al progetto di Tridente pesante? O no, che forse no, Mandzukic ci andrebbe meglio di uno di Higuain e Dybala per costruirne poi 11. Mandzukic persona, Mandzukic è un attaccante, mi corregga mister se sbaglio, che ogni allenatore vorrebbe avere perché fa quantità, li picchia tutti, lavora per la squadra, fa dei gol. Certamente, e quindi se hai gli questo. Altri due. Però puoi dare già la partita. Esatto, e Higuain è Higuain. Nella fase di Higuain è uguale. Però sono dei bei dubbi, mister, sono dei bei dubbi per un allenatore. Averne. Esatto, averli tutti e tre è un bel dubbio. Averne. Però è importante che loro capiscano, soprattutto a livello di cultura di squadra, che anche in queste partite qui devono lavorare tutti, perché dopo è difficile riciclare, richiamare questa qualità nel momento in cui ti trovi in difficoltà con una squadra importante in Champions. Certo, io mi ricordo... È questo che Allegri... Ieri sera, secondo me, si riferiva a questo, insomma, a battere questo tasto qui. Anche domenica col Bologna, onestamente, la squadra insomma non ha lavorato compatta, poi non ce n'è stato bisogno, fortunatamente, no? Volevo dire, scusi, che comunque sono due stiamo parlando di due partite, quella di Doha e quella di ieri di Coppa Italia sui generis, perché la partita di Doha era quella classica di prenatalizia con i motori degli aerei accesi per andare in vacanza e fare le altre cose, pur essendo una finale. Questa è una partita di Coppa Italia al rientro, quindi in debutto di stagione, magari si è lavorato delle altre cose. Però, ripeto, i segnali ci sono stati e è meglio che siano arrivati in queste partite piuttosto che nel più avanti della stagione. Allora, io rispondo a tutti quelli che stanno scrivendo accusandoci di dar contro la Juve anche se ha vinto, dicendo che la Juve ha dominato giocando con tante riserve, che non è vero che l'Atalanta ha dominato negli ultimi 20-30 minuti. Allora, io l'ho detto in partenza, i segnali positivi sono certamente più di quelli negativi, perché il primo tempo della Juve, ad esempio, è stato di altissimo livello contro un ottimo avversario. Però fa notizie, si può dibattere anche di questa tendenza ogni tanto a spegnere la luce, ma non lo diciamo io, Zaccheroni e Fabio Parisi, l'hanno detto ieri Barzagli e Allegri, che insomma qualcosa contano nello spogliatoio della Juventus. Abbiamo un minutino prima della borsa, io volevo chiedere ad Alberto Zaccheroni se mi dà un voto di rincon, perché oggi leggendo i giornali ho trovato pagelle che vanno dal 5,5 al 6,5. Ma per me io sono sul 6,5. Ma lui è un giocatore che non ha la giocata facile, però è un giocatore che ce l'ha in partita, lo senti. Lui giustamente l'ha messo, Allegri l'ha messo sul lato sinistro, perché l'Atalanta sviluppa meglio il suo gioco su quel lato lì. Ci aspettavamo tutti Rincon a destra e Marchisio a sinistra. E lui dove c'era da combattere ci ha messo Rincon e onestamente l'Atalanta da quel lato, che è il lato forte dell'Atalanta, ha fatto ben poco, devo dire. Quindi a me non è dispiaciuto. Poi dopo da lui non ci si deve aspettare chissà che cosa, però lui c'è sempre. Io sono d'accordo col mister, anche perché era il debutto con la maglia della Juventus e quindi aveva sicuramente delle motivazioni, però forse non conosceva ancora bene i meccanismi, non conosceva delle altre cose, quindi il voto è sia per la prestazione che per, diciamo così, l'incoraggiamento e la buona volontà messa per dimostrare a tutti che è un giocatore che può stare nella rosa della Juventus. Io 6,5 glielo do, 6,5. Per quello che ha fatto nelle due fasi. Allora, diamo 6,5 a Rincon, diamo senza voto a Piazza, che è entrato oggettivamente nel momento più difficile della Juve e potremo rivederlo un'altra volta. Grazie mister. Grazie a voi. Grazie ad Alberto Zaccheroni. Io ricordo ancora i contatti 800 24 00 24. Vi aspetto, adesso apriamo anche i telefoni, arriva per Luigi Pardo 349 238 6666 per i vostri messaggi SMS e WhatsApp. Io non commento chi scrive che l'Atalanta ha perso per la 14ª volta di fila contro la Juve, che tra le righe significa si è scansata. Se avete visto la partita ieri sera, insomma, secondo me vi siete fatti l'idea di che cosa è stato la borsa. Torniamo subito. Tutti convocati. Venerdì 20 gennaio 2017. Radio 24 vi porta alla cerimonia di insediamento del 45esimo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L'appuntamento in diretta, all'interno di Focus Economia, pochi minuti prima delle 18. Al portico est del Campidoglio si rinnova una tradizione iniziata quasi due secoli fa. I love this country. Thank you very much. Venerdì 20 gennaio alle 17:50 su Radio 24. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Tutti fanno pronostici, non tutti nel posto giusto. Scommetti nelle agenzie SNAI o su SNAI.it. SNAI, the playmakers. Tutti convocati. A me non mi hanno detto, non mi hanno parlato da nessuna offerta, quindi io non devo rifiutare niente. Io sono felice qua, mi trovo bene. Il mio procuratore arriverà in questi giorni. C'è la volontà da parte mia. Adesso io devo aspettare la risposta della società, che parlerà con il mio procuratore, e vedremo cosa succederà. Sicuramente ci saranno notizie in questi giorni. Questo Dybala, che è l'altro caso forse presunto di mercato della Juve, in realtà lo avete sentito, nei prossimi giorni dovremmo avere notizie sulla firma. Ci ha raggiunto il carissimo Pierluigi Pardo. Ciao Pier. Ciao, ciao. Ma il caso di Dybala è uno solo, che è troppo forte. Ma l'hai visto cosa ha fatto? Quindi, allora, io devo dire la verità, io rifiuto i paragoni con Messi oggi, però il gol di ieri è stato una meraviglia. Sì, sì, no, ma una cosa incredibile, veramente incredibile. E quindi è questo il tema, insomma, no? È ovvio che quando c'è un giocatore così non sei mai completamente al sicuro, perché potrebbe arrivare. Oltretutto, la Juve è certamente la realtà più forte economicamente del nostro calcio, ma nel momento nel quale si dovessero affacciare società che possono offrire 12-13 milioni di euro a stagione, insomma, lì il discorso diventa un po' più complicato. Detto questo, secondo me la Juve è un progetto tecnico in questo momento talmente forte, talmente importante, e credo che Dybala sia benissimo, sappia che gli fa assolutamente comodo a rimanere alla Juve, quindi io sono dell'idea che il caso non esista e che il giocatore rimarrà alla Juve. È chiaro che alla lunga. Io penso che la Juve cominci ad avere anche la dimensione, Fabio, per tenersi. Sì, ma no, questo, al di là di questo, innanzitutto bisogna vedere una cosa. Io vedo Dybala personalmente eventualmente un giocatore adatto alla Spagna. E in Spagna ci sono due squadre. Finché tanto in una c'è Messi e nell'altra c'è Cristiano Ronaldo, non credo che Dybala abbia voglia di andare. Dybala si sente una star, secondo me diventerà la star assoluta della Juventus, e poi si vedrà. Può anche darsi che la Juventus, da come stanno lavorando, nulla toglie che possa diventare stare alla Juventus meglio che stare al Barcellona o Real Madrid, sicuramente. Questo non toglie. È vero che hai detto una grande verità. Prima, Dybala è veramente forte. Sì, intanto continua il dibattito sulla Juve. C'è un amico che non si è firmato, per favore firmatevi, che scrive: Hernanes, Sturaro, Rincon, troppo poco per andare avanti. Poi c'è chi dice questione di calo di motivazioni, c'è chi dice si era già visto l'anno scorso col Bayern in Coppa Italia contro l'Inter. C'è chi continua a sottolineare che per 60 minuti ha fatto un'ottima prestazione la Juve. Ma lei che ieri ha fatto il tweet che ha scritto, ce lo siamo persi. Ha scritto che quando la Juve comincia a essere sicura del risultato smette di essere la Juve. Quindi abbiamo giocato bene per 75 minuti, se non sbaglio, bisogna farlo per 95. Ma è assolutamente questo, cioè il tema è quello lì. Io nella partita di ieri della Juve vedo un'altra grande dimostrazione di forza, perché uno potrà dire Hernanes, Sturaro, ma di fronte a una squadra come l'Atalanta che sta facendo benissimo, poi alla fine la Juve vince sempre, ragazzi, che possiamo dire? La Juve vince sempre, e tutto sommato anche nella partita di ieri, no, anche se ha concesso qualcosa all'inizio all'Atalanta, ha dato una sensazione di quasi di speranza agli avversari, però poi a un certo punto si è messa a giocare con concretezza di tipo diverso. Poi c'è stato il calo, che però secondo me è, come dice Allegri, è un calo di troppa sicurezza, di si aspetta la luce, si è staccata la spina. Esatto. Questione di testa e non di fisico. Poi Zaccheroni ci ha anche spiegato giustamente, questione anche che l'Atalanta si è sistemata diversamente in campo. Sì. Allora, 800 24 00 24, ve l'avevo promesso, Enrico da Udine. Buon pomeriggio a tutti. Eccoci, buon pomeriggio a te. Siccome la nostra Coppa Italia sta diventando, per me almeno, abbastanza stuzzicante. Abbiamo visto anche gli ingressi ieri allo stadium, nonostante le temperature polari. Guarda, ti do io il numero: 3 partite di ottavi di finale fin qui giocate, la media è oltre i 22.000 spettatori. Più che in campionato. Esatto. Più che in campionato. Esatto. È vero che i prezzi sono ridotti, per carità, adesso non scritte 1.000 messaggi, lo so. No, però no, sono comunque numeri importanti. Enrico. Esatto. Se aggiungessimo un po' di pepe e magari uno dei 4 posti in Champions League. Bravo, bravo, bravo. Che ne pensate? Bravo, bravo, bravo. Sono tre, eh? I posti sono tre. I posti di cosa? Va bene lo stesso, anche uno dei tre. Ah, dall'anno prossimo sono quattro, dai. Ragazzi, no, uno dei tre, francamente, tra due anni sono quattro. Sì, beh, l'anno prossimo si gioca per essere in quattro. Quindi... Sì, l'anno prossimo si gioca per essere in quattro. Ma io... Allora, io penso questo, che adesso cambierà appunto il format. E questo format renderà ancora più importante la Champions e ancora meno importante l'Europa League. In attesa che si arrivi a un format unico, che a questo punto secondo me sarebbe quasi consigliabile, quindi con quel tipo di sistema, con quattro italiane si può anche ragionare. Però la Coppa Italia comunque tante cose positive le ha fatte negli ultimi anni. Le partite in gara unica sicuramente funzionano, la finale in gara secca funziona, insomma, quindi secondo me ci sono la Coppa Italia rispetto a 10-15 anni fa è una delle cose più migliorate del calcio italiano. Guarda, sì, c'è un amico che scrive: non è ora di cambiare la formula della Coppa Italia. Posso dire no? Io sì, va bene così com'è, io sono invece di sì. Pier, tu sai benissimo che perché abbiamo non su Marte, appena di là dalla Manica, fanno lo stesso lavoro che facciamo tutti noi, quindi fanno il calcio, ma là guadagnano un sacco di soldi e qua noi, se non troviamo qualcuno che ne mette tanti, grazie a queste persone, abbiamo qualche problema. Allora andiamo a vedere cosa fanno. Io invece sarei dell'idea: facciamo la Coppa Italia e diamo la chance alla squadra del nazionale dilettanti di andare a giocarsi una finale all'Olimpico a San Siro. Diamo questa possibilità, facciamola diventare importante, facciamola crescere, facciamola e diamo una formula tipo la FA Cup. E sono d'accordo di dare uno dei posti della Champions League a chi vince la Coppa Italia. Guarda, io non sono del tutto d'accordo, nel senso che premesso che mi piace tantissimo la formula della FA Cup, cioè l'idea che anche veramente la squadra di quartiere possa giocarsela e sognare un giorno di sfidare la Juve, l'Inter o il Milan, però io penso che la forza, la crescita della Coppa Italia negli ultimi anni è dovuta alla sua poca democrazia, nel senso che la Coppa Italia negli ultimi anni funziona perché sono partite secche che si giocano quasi sempre in casa della squadra più forte dalla composizione del tabellone, e le grandi hanno un calendario blindato, tant'è vero che cominciano a giocare a gennaio, che nei quarti di finale arrivano le otto ma anche in effetti le squadre di Serie A e Serie B cominciano a giocare dopo cominciano a giocare il 6 gennaio, però quando ancora ci sono credo 64 se non 128 gare, facciamola ancora. Attenzione, in più non ci sono teste di serie, quindi esattamente. Esattamente, può capitare che due squadre di Serie C giocano. Vabbè, ma è la forza, è la tradizione, è il pathos, è quello. Guarda, che dà. Dal punto di vista della democrazia, è chiaro che sarebbe. Ha ragione Parisi. No, dal punto di vista dei numeri, no. Se no facciamo come c'era una volta a Wimbledon. Non c'è più Atalanta Cremonese, con tutto rispetto per Atalanta Cremonese. Ma non è vero, deve funzionare proprio perché c'è Atalanta Cremonese. Devi trovare una formula che permette questa cosa. Se no fai come due secoli fa a Wimbledon, la Coppa Davis, c'era il challenge round, che chi vinceva giocava sempre la finale, e allora facciamo sempre le stesse cose. Wimbledon e i tornei tennis si basano sul meccanismo delle teste di serie. Sì, non fanno Federer, Nadal, è molto popolare dire non facciamo le teste di serie, poi però rischi che hai un quarto di finale fra due squadre di serie B. Adesso però c'è il quarto di finale Juventus Milan o Juventus Torino, appunto Juventus Torino. Ho capito, ma perché Milan e Torino sono tra la quinta e l'ottava squadra del tabellone, e quindi quella che vincerà passa nel più, cioè è proprio questo meccanismo blindato che, d'accordo, sarà poco democratico, che fa sì però che la Coppa Italia sia bellissima, e credo che i Rai per esempio siano molto contenti, perché sicuramente non credo che vogliano una partita, una semifinale fra due squadre di Serie B. Sull'allargamento invece della base sono d'accordissimo. Nel senso che comunque cominciare veramente dai dilettanti, cioè mettere sempre più squadre dilettanti e cominciare con i turni preliminari ad agosto con i dilettanti, questo mi piace. Rispettiamo un pochino più i tifosi e un po' meno la televisione. Quando arrivate in semifinale l'anno scorso tutti a dire però Milan-Alessandria che pizza. Luciano da Firenze che ci sta aspettando da... Ma quei 5.000 da Alessandria che sono venuti a San Siro, come loro si sono divertiti. Certo, Luciano. Sì, buongiorno. Eccoci. A tutti. Dai. Senta, io siccome sono, nonostante sono a Firenze, sono juventino da Attenzione. Tantissimi anni. E quindi domenica che fai? Domenica che faccio? Domenica sono per la Juve come sempre. Sì, no, ma cosa fai? Ti nascondi? No, non è vero nulla, c'è un ottimo rapporto qui a Firenze, sono tutte chiacchiere, sì, quelle che non ci possiamo vedere. Io ho il genero, ho il consuocero della Fiorentina, si parla. Vabbè, ma quelli sono parenti, non è che poi... No, ma è uguale, è uguale. Glielo dico io, c'ho un monte di colleghi, si parla. Al limite mi possono chiamare gobbo di merda, ma... dopo è finita lì, ha capito? Ci può stare. Vabbè, dici però, Luciano, dai. Sì, io le volevo dire che non so io come mai voi, che insomma vi stimo perché vi ascolto, non avete ancora capito che il male della Juve è Allegri, punto. È nuova questa tesi. No, non è nuova, non è un allenatore da certi livelli, non li sa guidare in campo, non gli sa mettere la forza dentro come faceva, sempre per fare un esempio scontato, come faceva Conte. Questo li manda all'arrembaggio. Quante finali di Champions ha fatto? Ma cosa ci incazza con questo? Non ci incazza nulla, ha avuto un culo e non finisce più, ha trovato tutte le peggio squadre d'Europa. Bellissima Firenze, la città che adoro, ha trovato anche Real Madrid, ha trovato. E gli cambia le carte in tavola, non ci capisce più nulla, come ieri sera, gli ha cambiato le carte in tavola Gasperini e non ci ha capito nulla. Andava male, infatti, ha cambiato le... Ma per cosa pensate voi? Perché va via Ibra? Perché si è rotto le scatole di pigliare del bischero da lui. Ha fatto fare due figure, una a Bayer e una a Doha, a Evra, che è una cosa incredibile. Scusi, ma cosa sta dicendo? Ma se la Juve è uscita con il Bayern, al di là del fatto che Evra è un grandissimo giocatore, perché mi sembra centrale invece di mettere Rugani, che si è visto com'era, perché a quel tempo Rugani non lo vedeva. Evra non è un centrale. A Doha gli ha fatto fare le figure di dischero sossuso. E cosa ci incastra? Si cambia, si vede. Un allenatore cosa ci sta a fare? Per allenare c'è i preparatori, c'è i dottori, c'è i tattici. Cosa ci sta a fare lui se non lì? Luciano, sei un mito. Adesso noi abbiamo il traffico, noi prendiamo il tuo numero. Questo weekend c'è Fiorentina-Juve, magari lunedì te la facciamo commentare. Non so se Giorgio De Luca è d'accordo. Piera, sei d'accordo? No, ma io non facciamo commentare a Luciano da Firenze e vediamo anche tanto come gli è andata. Sentir dire che Allegri ha fatto fare una figuraccia a Evra, a Monaco di Baviera, che è stata una delle partite più belle della Juve degli ultimi anni, rovinata da un errore individuale, che per carità ci può stare anche da parte di un grande giocatore come Evra, mi fa veramente... Non so neanche sorridere, cioè mi sembra una cosa assurda. Il calcio è bello perché ognuno ha la sua opinione. Ma le finali di Champions non sono un dato così. I risultati ci sono. Certo. No, adesso devo fermare perché c'è traffico, poi torniamo subito. Tutti convocati. Va bene Piero, non ti leggo cosa non sta arrivando, 349-238-6666 sull'editoriale di Luciano da Firenze. Ti spiace avere un monitor qua? No. Mi fate parlare di Gabbiadini, che so che Fabio Parisi ha un'idea abbastanza formata su Gabbiadini. Allora, Gabbiadini andrà via dal Napoli, questo credo sia l'unica certezza, così come è vero che a Napoli qualcuno in queste ore sta dicendo perché ci siamo giocati così male la chance Gabbiadini, il che non significa che potrà restare. Abbiamo sentito anche Milik, è in fase di rientro, 2 settimane, 1 mese, e sarà di nuovo disponibile. C'è Pavoletti, c'è Mertens che ha fatto benissimo, quindi è impensabile che qualcuno cambi davvero idea su Gabbiadini, anche se penso che poi si risolverà tutto negli ultimi giorni di mercato. Questa è la sensazione che ho ricavato parlando con un po' di addetti ai lavori interessati a questa trattativa. Saluto anche Antonio Giordano dal Corriere dello Sport. Ciao Antonio. Buongiorno a tutti. Mi confermi che Gabbiadini va via, sì? Al 200%. Non ho dubbi da molto tempo. Sì, anche se non credo sarà così semplice mettere insieme quelle che sono le aspettative del Napoli dal punto di vista economico e quelli che sono i desideri, le esigenze di Gabbiadini. Credo che sia soltanto una questione di soldi, e poi è inutile che facciamo gli schizzinosi a questo punto, no? Credo che valga per tutti, c'è un mercato che detta le proprie regole, e a questo punto qualcuno cercherà di risparmiare sapendo che il Napoli ha 4 attaccanti, e il Napoli non lascerà risparmiare, perché ritiene Gabbiadini giustamente un valore di mercato. Mm. Che poi per un periodo non abbia segnato appartiene alla storia del calcio e dei bomber. Ha ricominciato a farlo nel momento in cui, guarda caso, è arrivato Pavoletti, e mi viene lecito il dubbio che in quel momento lui si sia liberato di tutte le forme di oppressione psicologica che il San Paolo dà. Ma secondo voi, parto da Pierluigi Pardo, c'è qualcuno che si sta pentendo per come sta finendo questa storia? Non credo, il pentimento arriverebbe solo se la cifra incassata alla fine fosse basta, ma credo che il valore del giocatore sia tale che questo rischio non si corra. Io penso che sono d'accordissimo con Antonio, cioè secondo me non è un caso che stia facendo queste buone partite adesso. Sicuramente ai titoli di coda ha trovato dal punto di vista psicologico più serenità. Il problema di Gabbiadini è stato essenzialmente di natura psicologica, anche se sicuramente il tipo di ruolo, che è un ruolo ibrido, no? Perché lui è un giocatore che può fare tanti ruoli diversi, è un polivalente, sicuramente non l'ha aiutato. Lo scorso anno ha avuto pochissimo spazio e ci stava, quest'anno è mancato anche lui sicuramente come personalità, però io non penso che ci siano grandi pentimenti. Certo, il giocatore è buono, e lo sta dimostrando in queste ultime uscite. Io non mi sorprenderei di vedere Gabbiadini sbocciare da qualche altra parte, perché secondo me il talento c'è. Ma questo credo che lo sappiano anche i dirigenti del, sì, Napoli. Così poi qualche recriminazione viene davvero, ma mi fate capire perché ha fallito a Napoli. Qua siamo vendi, guadagni e penti, ti dico. Sì, è come la borsa. Ma perché ha fallito a Napoli, Fabio? Fallito a Napoli per una serie di motivi, che non sempre si sta bene nel posto in cui si è, ci sono motivazioni diverse, c'è magari un sistema di gioco che non si adatta alle tue caratteristiche. Quanti sono gli esempi di calciatori bravi che non hanno fatto bene in una squadra e poi se ne sono andati ha fatto benissimo? Ha fatto di tutto per metterlo in condizione o no? Non lo so se abbia fatto di tutto, è chiaro che secondo me era una valutazione che andava fatta forse a livello di mercato e di programmi all'inizio della stagione, capire se effettivamente Gabbiadini era un giocatore funzionale al sistema di Sarri. Questa è una cosa da valutare. Antonio, non discuto che le qualità ci siano, e se un giocatore ha le qualità, se è messo in condizione di tirarle fuori, poi vengono. Devono uscire, certo. Antonio. Come la vecchia pubblicità, Sarri ha fatto di tutto e di più, e poi nei momenti in cui Gabbiadini si è ritrovato in campo, fatalmente purtroppo per lui non riusciva a dare quello che voleva. Devo dire una cosa che è molto paradossale, ma che si collega a quello che ha detto prima Pardo a proposito di Gabbiadini e a quello a cui avevo fatto riferimento io, cioè al tappo psicologico. Stranamente Gabbiadini, soprattutto l'altra sera nella partita contro lo Spezia, ma anche nei minuti in cui ha giocato contro la Sampdoria, non solo ha fatto gol, ma ha fatto tutto quello che un centravanti all'interno del 4-3-3 deve fare, ed è tutto quello che non gli riusciva di fare prima. Io non sto colpevolizzando Gabbiadini, attenzione, del quale ho una stima enorme, sto dicendo soltanto che succede nella vita di ognuno di noi di scoprire che in un certo momento di questa vita non ci sia empatia con le situazioni proprio professionali, e poi succede che in un altro momento improvvisamente sbocci. Pavoletti è stato l'elisir del ringiovanimento di Gabbiadini. Certo. Ma la domanda è: Sarri, al quale vogliamo tutti bene e che sta ottenendo comunque risultati importanti, ha un po' di responsabilità? Cioè, il tema è aperto, eh. Se l'è giocata male, se l'è giocata male con Gabbiadini. Allora, Parisi dice sì. Interpreto. No, non è che dico sì, dico che, come l'ho detto qualche giorno fa anche, il calciatore deve sentire al 100% la fiducia, probabilmente se non la sente non riesce a esprimersi, e questo forse è quello che è successo a Gabbiadini. Vi aggiungerò dei dati statistici che vado a memoria a riprendere nel mio cervello bacato. A prima giornata di campionato Gabbiadini è il titolare del Napoli al Pescara, al 50° minuto il Napoli perde a Pescara 2-0, è chiaro che purtroppo per lui deve uscire, no? Entra Milik con Mertens e cambia la partita. Milik da quel momento nelle successive 6 partite segnerà 7 gol, Io non so se è colpa di Sarri, onestamente. Devo no, dire ma non sto dicendo che è colpa di Sarri. È una cosa. È una cosa che ha spiegato Gabbiadini. Prima c'aveva Higuaín che faceva un gol a partita, poi arriva Milik in 6 partite ne fa 7. Questo stai dicendo, Antonio? Sì, sì, 540 minuti, 7 gol. No, ma Gabbiadini, sia ben chiaro, Gabbiadini le sue occasioni se le giocate male. Secondo me questo è indiscutibile. Poi se ne abbia avute abbastanza, se soprattutto dopo l'infortunio di Milik. Le scelte sia proprio dal punto di vista pratico che da un punto di vista proprio di quell'empatia, di quella fiducia alla quale faceva riferimento Fabio, insomma, se Sarri abbia fatto il massimo, questo non lo so, a me il dubbio rimane, però ripeto, la responsabilità quando comunque poi non si riesce a fare quello che probabilmente è nelle tue corde è prima di tutto il diretto interessato, cioè non c'è dubbio che sia stato soprattutto Gabbiadini in quel momento lì a fallire o comunque insomma a non fare quello che avrebbe potuto e dovuto fare. Mi rimane il dubbio che poi di fondo fosse un giocatore non così amato in partenza da Sarri e che quindi probabilmente si poteva fare una scelta diversa. È questo nessuno, quello a cui alludevo io. Esatto, anche se nessuno poteva sapere che Milik si sarebbe fatto male, no? Perché poi, e cioè, che Mertens si sarebbe inventato un'altra vita. Appunto. Sì, certo, e che avrebbe fatto i numeri che ha fatto. Io ringrazio Antonio Giordano del Corriere dello Sport, grazie Antonio. Grazie a voi, un abbraccio a tutti. Ciao. Abbiamo 30 secondi. Io chiedo a Fabio Parisi di fermarsi altri 10 minuti perché dobbiamo fare ok il prezzo giusto dopo il GR delle 15. sì, perché poi ci sono anche altri temi da trattare. O poi parliamo anche, se volete, 800-24-00-24 della grande sfida tra Inter e Juve, perché gli interisti hanno la potenza di Suning. I juventini dicono pagate tutto con i prestiti fra 2 anni. Io vorrei sapere come la pensate. Adesso però c'è il GR, saluto Pierluigi Pardo, domani. Ciao, a domani. Dopo ciao, il GR delle 14, invece noi ci troviamo 3 minuti dopo il GR delle 15. Tutti convocati. Il 25 gennaio un gruppo scelto di ascoltatori di Melog avrà l'opportunità di visitare la mostra Homo Sapiens al MUDEC di Milano assieme a me. Per essere selezionati e far parte del gruppo degli eletti sarà necessario inviare 2 foto di se stessi alla mailbox melog@radio24.it. La prima foto dovrà essere del proprio passato e l'altra del presente. Gli ascoltatori dovranno indicare qual è stata la loro evoluzione o involuzione nel periodo che passa tra le 2 foto. Darwin ci ha insegnato che non sopravvive il più forte, ma il più capace ad adattarsi al suo ambiente. Ma noi quanto e come ci siamo adattati? 25 gennaio, ore 20:30 al MUDEC, via Tortona 56 Milano. Tutte le info su radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da Legno Edilizia, Fiera di Verona dal 9 al 12 febbraio. State ascoltando un programma offerto da Tutti fanno pronostici, non tutti nel posto giusto. Scommetti nelle agenzie SNAI o su SNAI.it. SNAI, the playmakers. Convocati. Abbiamo ancora 23 minuti per parlare di calcio. Non solo, vi annuncio che parleremo con Leo Turrini dei 70 anni della Ferrari. Tra qualche minuto ci sono già Giampiero da Lucca e Giuseppe da Torino. 800-24-00-24. Prima però giochiamo a OK il prezzo è giusto con Fabio Parisi, procuratore, agente, intermediario FIFA. Allora, mi mettete la musichetta? Sì. Intanto scrive un amico, spero che la Juve non prenda mai Verratti, anzi spero che lo prendano all'Inter buttando via i soldi. Oggi Repubblica ha scritto che vale 78 milioni, o meglio c'è un'offerta su Ning da 78 milioni. Allora, chi può permettersi ad esempio Verratti, se qualcuno può permetterselo davvero in Italia? Ma... Però risposte brevi, io, No, perché chi può permettersi Verratti? Credo l'Inter, se su Ning ha queste cose... I tifosi milanisti magari sperano perché c'è un'altra proprietà. Quindi Inter Milan forse. La Juventus però deve essere, cioè se la Juventus ha comprato Higuaín può che comprare Verratti, questo è vero. Poi l'altro grande nome è Bernardeschi, cioè, quanto costa? Qual è il prezzo giusto di Bernardeschi? Il prezzo giusto di Bernardeschi? Il prezzo giusto di Bernardeschi lo fa il mercato, non è che puoi dire, perché Bernardeschi se lo vuole solo una squadra c'è un prezzo, se lo vuole... Siamo sopra o sotto i 50 milioni? La cifra è quella. 50 milioni. Sì. A proposito di prezzo giusto, visto che è appena rientrato dopo 4 mesi fuori, quest'estate valeva 25. Qual è il prezzo giusto di Berardi? prezzo di Berardi in questo momento è sospeso dal listino, diciamolo, perché è stato fuori tanto, deve dimostrare e dire cosa vuol fare da grande Berardi. Deve dimostrare cosa vuol fare da grande, ma può darsi che ne valga anche di più, però deve dimostrare cosa vuol fare da grande. Cioè, effettivamente decide di lasciare Sassuolo e vuole andare a giocare in una grande squadra, o se continua a dire no, ma aspettiamo, vediamo, non è il momento giusto. Manolas è giocatore per l'Italia o per la Premier League? Manolas è un giocatore per la Premier League, perché le richieste della Roma saranno da Premier League. Quindi parliamo di? Anche lì siamo vicini ai 50 milioni. 50 milioni di euro per Manolas. Cairo ha detto che 65 milioni per Belotti sono pochi. Ha detto una bugia oppure davvero? Secondo me ha detto una bugia, Presidente. Però è chiaro che le cifre che girano sono queste, soprattutto in un momento in cui non ci sono tanti attaccanti forti disponibili. Dovrà vedere di conquistare il mercato estero, l'appeal degli osservatori e dei dirigenti e degli allenatori delle squadre estere. Che ancora non se lo filano fuori dall'Italia. E non ha ancora giocato fuori dai confini italiani. Ho capito. Kalinic va o no in Cina? Sì o no? Alla fine penso che andrà. A gennaio. Se lo vogliono lo pagano e quindi lui va. Poi l'ultima domanda è Insigne, che continua a non rinnovare con il Napoli. Va via magari in estate? Ma c'è la possibilità. È chiaro che è un gioco, è una partita a scacchi quando ci sono queste situazioni. I calciatori più si avvicinano alla fine del contratto più hanno potere. Poi bisogna vedere quelle che sono le alternative, francamente. Non è che vada in scadenza domani mattina Insigne. Io credo che sia un gioco di anche questo, una partita a scacchi, cercando che ognuno faccia l'affare migliore. Gianpiero da Lucca, Gianpiero. Sì, salve, buonasera. Eccoci. Gianpiero da Lucca, sì. Cioè, io concordo completamente con il signor Luciano da Firenze. Secondo me il problema... Scopriamo una toscana juventina. No, lui è il genero di Luciano da Firenze. No, non sono il genero, Io abito a Lucca, quindi è fuori distanza. Che vuol dire? Che mio genero abita a Brescia. No, cioè... vabbè, però non lo conosco. No, concordo completamente. Io sinceramente sono un grande tifoso juventino, la seguo tantissimo. Mio cognato, però... non mio genero, non ancora. Prego. No. Non vedo mai una verticalizzazione, mai niente. Vedo palla indietro sempre. C'è sempre da soffrire, ecco, volevo esprimere questo. C'è sempre da soffrire una squadra che fa 100 punti, vince da 5 campionati di fila. Certamente, ma l'ha fatti, lo farebbe anche con un altro allenatore, secondo me. Insomma, può essere, li ha fatti anche con Conte, o comunque ci è andata vicina. Sì. Però insomma, secondo me è il bello dei tifosi della Juve in questo momento storico, che possono anche ricercare ossessivamente la perfezione, magari gli altri... Ecco, scrive un amico, i tifosi juventini fasulli sono ridicoli. Sono tifosi della Juve, che sei talmente forte che aspetti di vedere la perfezione. Giuseppe da Torino, il calcio è fatto anche poi di momenti, nella stagione, nella partita, di imprecisioni. Giuseppe. Sì, buonasera, buongiorno. Eccoci. Senta, io mi devo ripetere, anche io concordo con i tifosi di Firenze, sono della Juve. Diciamo che come tutte le organizzazioni anche la Juve secondo me è perfettibile, nel senso che le due l'una, o è Allegri che non sa mettere in campo gli esterni di fascia, oppure sono gli esterni di fascia che non sono in grado e all'altezza della Juve, perché Tainer da una parte sinceramente non ha detto un cross, secondo me il percentuale è bassissimo, e per Higuain e Mandzukic sarebbe, diciamo, è importante avere un esterno che mette palloni dentro. Ha un problema sugli esterni. Abbiamo un po' un problema noi di linea con Giuseppe da Torino, però provo a sintetizzare se c'è anche un problema di esterni nella Juve. Problemi di esterni? Gli esterni ci sono, poi è la duttilità della Juventus che la fa una grande squadra. Si gioca con la difesa 3, 5 centrocampisti, poi si gioca 4, si gioca con i due arieti davanti, si gioca con Pjanic che passa da numero 5 davanti alla difesa a numero 10 dietro le punte. Questo è un merito dell'allenatore, cercare di trovare sempre la soluzione migliore, non essere focalizzato sul suo schema. Lui li vede tutti i giorni, conosce le caratteristiche, conosce le caratteristiche degli avversari e mette giù sempre la squadra migliore. Poi è chiaro che se Daniel Alves ha qualche chilometro e anche Lichtsteiner, magari devi trovare delle soluzioni, però non credo che il problema della Juventus sia sugli esterni a centrocampo ed altre cose. Il problema della Juventus è di non assuefarsi a una routine di vittorie, quindi pensare che ogni partita è sempre una finale, una partita è sempre la prossima e mai quella che è stata. Io saluto Fabio Parisi, che lascio ai suoi impegni di giornata. Grazie, grazie Fabio, sempre stato un piacere stare con voi, saluti a tutti. A prossima e giochiamo Inter-Juve, dai! Noi non l'abbiamo mai trattato, in quanto si tratta di un profilo che non è funzionale alla nostra politica, pur essendo un ottimo giocatore, ma a centrocampo abbiamo anagraficamente giocatori importanti come Sturaro, come Mandragora, come Lemina, che sono praticamente coetanei, quindi sottolineo come sia un giocatore di levatura sicura, però non l'abbiamo mai trattato, quindi non si tratta di nessun sorpasso, di nessuna beffa. Ma un progetto direi ambizioso, penso che sia appunto il presidente voglia comunque portare a questa squadra e questa società una squadra che ha vinto tutto, e sicuramente ciò mi fa onore, perché il fatto che abbia scelto comunque me mi fa sicuramente onore, mi rendo orgoglioso. Allora, questo è il primo Gagliardini, l'altro era l'ultimo Marotta, perché su Gagliardini, ma non solo, insomma, si sta consumando il nuovo duello tra Inter e Juventus per la supremazia sul mercato italiano. Saluto Fabrizio Biasin, ciao Fabrizio. Ciao, ciao Giovanni, buon pomeriggio. E Massimo Zampini, ciao Massimo. Ciao, ciao Giovanni, ciao Fabrizio. Mi dici Massimo se hai paura della potenza del Suning? Poi Fabrizio ti spiega cos'è la potenza del Suning. Vai Massimo. Paura è riduttivo, cioè qua non abbiamo più margini per sperare in un titolo. Possiamo certo giocare per i posti dietro l'Inter, e quello rimane una possibilità che non ci può togliere neanche la potenza di Suning, però per il resto, no, scherzi a parte, non sono mai mancati i soldi all'Inter da quando io seguo il calcio, voglio dire dagli anni fine 80 e poi 90 con Moratti, 2000 con Moratti. Anche in questi anni, tutto sommato, l'Inter ha speso molto più di tantissime altre squadre che sono arrivate poi sopra in classifica. E quindi non è detto, poi chiaro, meglio avere i soldi che non averli, è banale, e l'Inter certamente ne avrà, però se li spendi così non c'è neanche troppo problema. Cioè, ricordiamo che hanno preso l'ultimo giorno di mercato, hanno preso Gabigol, João Mario, ottimo giocatore tra l'altro, eccetera eccetera, pagando non so se 70-80 milioni, non è che quelli ti facciano vincere lo scudetto. Fabrizio. Ma io sono dell'idea che invece i soldi l'Inter li abbia spesi, non dico per forza bene, ma comunque secondo una logica, quantomeno in questa sessione di mercato. Gagliardini è un giocatore che serve all'Inter, l'estate scorsa è stato fatto il dentro tutti a qualunque cifra, probabilmente in maniera un po' sconsiderata, però sono l'idea che giocatori come João Mario possano essere giocatori da scudetto. Dopodiché è chiaro che il processo Inter è appena iniziato, ci vorrà del tempo, perché è una squadra in continua ricostruzione che adesso sembra avere un minimo di senso. Mi sembra un po' riduttivo far sì che sia solo una guerra Inter-Juve. L'Inter fa la sua strada, prova a prendere i giocatori che pensa possano essere utili alla causa. Se poi sono gli stessi che piacciono anche alla Juventus, significa che probabilmente... Però è stuzzicante, abbiamo sentito anche Marotta dire no, Gagliardini non interessava, invece insomma un pensierino la Juve ce l'aveva fatto, no Massimo? Sì, possibile, io davvero questo non lo so, ma sai, quelle sono schermaglie di mercato normali da una parte e dall'altra. Penso davvero che a determinate condizioni, che siano 22, 20, 25, 27, magari la Juve sia intenzionata a investire diversamente, magari peggio, io non lo so questo, veramente non sono in grado di giudicare a luglio, ma veramente dubito che la Juve ha un ottimo rapporto con l'Atalanta, era già su Caldara, ne ha parlato da settimane, dubito se la Juve avesse voluto fortemente concludere le cifre richieste dall'Atalanta, non l'avrebbe fatto, insomma. Quindi penso che l'Inter giustamente ha quei soldi, li ha spesi, come dice Fabrizio, a loro serve, benissimo così, contenti loro, ma anche noi siamo benissimo. Sì, qualcuno maliziosamente, Fabrizio, sottolinea che in fondo poi l'Inter paga fra due anni. Che è un po' il sistema usato in questi anni, adesso senza entrare nel tecnico, però se hai i soldi vai e paghi. Infatti l'Inter paga a gennaio Jovetic, paradossalmente Jovetic parte per Siviglia, ma l'Inter in questo gennaio ha pagato l'ultima rata del giocatore perché terminava il prestito biennale, è la formula che ha utilizzato Ausilio nei cosiddetti tempi bui, cioè gli ultimi anni quando l'Inter non aveva grandi possibilità di investire, utilizzava questa formula. Adesso la situazione è cambiata, ma diciamo che cambierà da giugno in avanti. Con il fair play finanziario in questo momento si può fare sono questo tipo di investimenti. Pagarlo fra due anni non significa che non lo si paga, lo si paga anche a caro prezzo, ma la differenza con il passato è che l'Inter in questo momento può permettersi questo tipo di investimenti, quindi non bisogna tanto ragionare su quanto ha speso, ma su ha speso bene. Questo lo vedremo da domenica in avanti. Sì, recupero un messaggio di uno che diceva dopo sei mesi un giocatore non può valere 28-25, quelli che sono milioni di euro, per carità, però io penso che investire 25 milioni di euro su un giovane prospetto sia meglio che darne 3-3,5 di stipendio a qualcuno che rientra magari a parametro zero. In questi giorni l'Inter si sta liberando di Felipe Melo, diciamo l'accostamento si può anche fare, no? Fabrizio, sì, Massimo, sì. Allora, sono, ci sono, ma vale anche per la Juve che fa l'operazione Caldara, per il Milan che ha fatto quella Romagnoli. Per tanti anni abbiamo criticato squadre come l'Inter, il Milan, ma anche la stessa Juventus, che prendevano giocatori magari un po' bolliti, pagavano a caro prezzo gli ingaggi e poi se ne liberavano magari fra un paio d'anni a costo zero, creando delle minusvalenze clamorose. Quando investi su un giovane, pur se a caro prezzo, la probabilità che tu possa aver fatto un buon investimento è sicuramente buona, per cui io credo che questa sia la linea giusta. Massimo. Sì, sì, no, io sono assolutamente felice che finalmente anche l'Inter, io seguo il calcio appunto da 30 qualcosa anni, diciamo è uno dei primi periodi in cui l'Inter si sta interessando a dei giovani italiani, a fare una squadra italiana. Io sono ben contento di questo. Per la Juve era meglio prima. No, va benissimo, no, così, non c'è problema. No, ci diverte anche avere qualche avversaria che torni dopo qualche anno, insomma, all'altezza. No, nessun problema. Effettivamente, sì. Diciamo che negli ultimi due anni, per meriti della Juventus, si era creato una sorta di monopolio quanto a spazzolare i prospetti più bravi tra Serie A, Serie B e Lega Pro. Perché? Perché la Juventus molto lucidamente poteva permettersi di fare questo, visto che le squadre le costruisce in estate. Adesso se anche l'Inter prova a fare la stessa cosa, copia, e secondo me fa bene a copiare. Certo, sì. Bisogna sempre copiare dei modelli virtuosi. No, ma non c'è dubbio questo. Dicevo, secondo me, però ricordiamo che mentre l'Inter prende Gagliardini e ne parliamo tutti da un mese, la Juve ha preso Caldara e la cosa è stata dimenticata e lo prenderà troppo. Cioè, poco male, io non ho nessuna idea di chi possa valere più in futuro tra i due, però io continuo a pensare che la Juve a me personalmente non sembra sconvolta da questo modo di agire delle avversarie. Sarà giustamente attenta a tutto, però continua il suo progetto. Ricordiamo ieri l'Atalanta è venuta a Torino, c'era Spinazzola, che è uno che sta nella Juve da sempre, del prestito, eccetera, eccetera. Cioè ce n'ha tanti, la Juve di giovani italiani. Vediamo poi a giugno se davvero si scatena l'asta su Verratti o su qualche altro nome. Vi saluto, che adesso ci sono i 70 anni della Ferrari. Grazie Massimo Zampini, Fabrizio Baesini, alla prossima. Ciao Giovanni, ciao Massimo, buongiorno a tutti. 70 anni della Ferrari. I giovani d'oggi possono sapere poco di quello che è stata la mia vita e il mio passato. Se dovessi dire che quando sono partito pensavo di farmi qualche cosa di più di una sola macchina, direi una bugia. Nel 1912 vidi una fotografia sulla Stampa Illustrata, che si pubblicava allora a Torino, di Raffaele Di Palma, e mi sembra avesse vinto in quell'epoca la 500 miglia di Indianapolis. Mi dissi, questo è un italiano, perché un giorno non potrei anch'io essere un pilota d'automobile? La macchina da corsa per me è come un figlio. Quando lei pensa che il figlio rappresenta la continuità di noi stessi, lei lo porta a scuola, il giorno che riesce negli studi, che è il primo della classe, lei è orgoglioso del proprio figlio. Capita quello che per un costruttore realizza, trasformando una materia informe, dei forgiati, in una meccanica vivente, in una armonia di suoni. Questo era Enzo Ferrari, Leo Turrini, ciao. Ciao, avete scelto dei brani bellissimi, eh? Io tra l'altro ho fatto in tempo a conoscerlo e devo dire che era veramente una figura straordinaria, anche per quell'umanità che cercava di trattenere, perché Ferrari si presentava verso l'esterno con un tratto burbero, ma poi nel fondo, insomma, era un individuo animato da passioni straordinarie. Tra l'altro, proprio 70 anni fa, in questi giorni, a gennaio 1947, usciva dai cancelli di Maranello la prima Ferrari, che era la 125S, che è, diciamo così, la mamma di tutte le vetture che hanno riempito i sogni di milioni e milioni di appassionati, collezionisti, clienti, eccetera, eccetera. E ormai siamo alla nonna o forse anche la bisnonna, Leo? Beh, potremmo anche dire così. Comunque, guarda, io adesso ho ripubblicato il mio libro, no? Enzo Ferrari, un eroe italiano. Sì. Per Longanesi, e ti voglio dare arricchito da nuovi capitoli. Bravo, quindi adesso ci dirai i nuovi capitoli cosa sono. Sì, però io la prima copia l'ho consegnata a Sergione Marchionne, o meglio, gliel'ho fatta avere perché lui era a Detroit che dialogava con Trump, no? E nella speranza che la lettura possa essere fonte di ispirazione, perché voglio dire, in assoluto la Ferrari è una delle espressioni più belle dell'italianità. Se noi pensiamo all'immagine del nostro paese, non è retorica, no? È il marchio questi... più conosciuto nel mondo. Bravo, so, oggi si dice brand, tu che hai studiato. È il brand più conosciuto del mondo. Sono un ex ragazzo di periferia e lo dobbiamo all'intuizione di quest'uomo, che devo dire è stato un po', prima dicevo la mamma la vettura, lui è stato un po' l'antenato di Steve Jobs, perché come Steve Jobs per il digitale, no? È stata straordinaria la sua capacità di cogliere ciò che avremmo voluto avere quando ancora non ci pensavamo, no? L'iPod piuttosto che lo smartphone, l'iPhone, eccetera. E beh, Ferrari, che sulle macerie della Seconda Guerra Mondiale immagina che l'automobile possa essere non solo lo strumento per la locomozione di massa, ma possa essere opera d'arte, grande intuizione, oggetto di lusso, status symbol. E beh, insomma, lì c'era una capacità di visione che forse è andata persa nell'Italia nostra di oggi. Anche in Ferrari è forse andata persa. Per questo io mi appello tramite il mio libro a Sergio Marchionne, hai capito? Perché si illumini. Perché il senso della riflessione è questo. Nell'Italia di oggi sarebbe ancora possibile una storia come quella di Enzo Ferrari? Io credo di no. E questa tua risposta ci dovrebbe spaventare, perché invece noi abbiamo bisogno, come nazione, come patria, di tanti Ferrari, non solo nelle corse, non solo nella produzione automobile, non solo nello sport, ma in tutto. Ecco, per questo io credo che sia un simbolo da recuperare. Poi tu vorrai sapere se quest'anno vinciamo in Formula 1. Io vorrei sapere se secondo te che hai conosciuto il Drake Ferrari avrebbe scelto Marchionne da mettere a capo della Ferrari. Questo è da stanotte che, guarda, non dormo. Allora, Marchionne notoriamente a tantissimi è simpatico come un crampo allo stomaco, questo lo possiamo dire serenamente. Sì, lo salutiamo, devo... perché ci ascolta sempre. No, però devo dirti che quando ho parlato con lui, ho percepito che lui veramente una passione da ferrarista ha, e non è una conseguenza della quotazione in borsa, del suo impegno a livello manageriale con Fiat Chrysler. Lui proprio mi ha raccontato che da italiano, cresciuto, vissuto all'estero, il Canada e tutto il resto, si riconosceva in quello che questo marchio rappresentava, anche in pista. Quindi non è che io non voglia rispondere di ma a Ferrari sarebbe piaciuto Marchionne presidente, perché veramente Ferrari non avrebbe nemmeno mai immaginato la sua azienda in borsa, no? Come dicevamo prima, è cambiato tutto. Però di una cosa sono sicuro, che Marchionne ci tiene e che sta male quando vede che in pista, parlando di Formula 1, le macchine rosse non lottano per il primo posto e nemmeno per il terzo. Ecco, questo può essere incoraggiante. Adesso abbiamo vinto la battaglia delle sospensioni, quindi l'anno prossimo sarà tutto diverso. Beh, guarda, adesso lì fammi dire una cosa, perché poi noi in certe così ci autoflagelliamo un po'. Diciamo, è importante questa cosa. Io non dico che la Mercedes vincesse perché aveva una trovatina idraulica che, per l'amor di Dio, sono molto bravi, dominano da 3 anni. Però la Federazione Internazionale è stata costretta ad ammettere che sia la Mercedes che la Red Bull utilizzavano un dispositivo che poi in realtà perfettamente conforme allo spirito del regolamento. Ora, è vero che la Ferrari non ha toccato palla nel 2016, pur facendo 11 podi, eccetera. È anche vero che qualcun altro forse è stato non solo più bravo, questo va riconosciuto, ma anche più furbo, e questo va meno bene. Allora speriamo che da qui a fine marzo, quando riparte il mondiale per i 70 anni della Ferrari, a Maranello riescano ad essere più bravi e anche più furbi. Anche un po' più furbi. Grazie Leo. Grazie, a presto, salutami Carlo Genta, tornerà. Torna lunedì, torna lunedì, te lo dico a tutti, torna lunedì, anzi in realtà torna domenica alle 17. Vogliamo tutti bene a te, ma siamo preoccupati, ma non è finito. Dai, Genta, preoccupati. È ancora vivo, ecco. Il lavoro capita, di stare a casa ogni tanto. No, beh, assolutamente, comunque voglio dire, salutacelo tanto, lo dico a nome dei milioni di ascoltatori, dei miliardi, tutti dei convocati. Miliardi. Anche da Detroit. Grazie Leo, ricordo ciao. Enzo Ferrari, un eroe italiano, edizione Longanesi, in uscita con nuovi capitoli oggi, giorno in cui iniziano i festeggiamenti per i 70 anni della Ferrari. Io mi fermo qui, ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Gianmarco Ferronato in regia. Torniamo domani dopo il GR e l'Europa alle 14.